Ehi! Questo baccano, che succede? È la stampa, bellezza, la stampa. La rassegna stampa di Radio 24, a cura di Bruno Perini. E tu non ci puoi far niente, niente. Toghe truccate. Un aspirante magistrato racconta il suo concorso farsa. Gentile ministro, le racconto tutte le irregolarità del concorso di Ro e l'enorme senso di sconforto, di sconfitta e di impotenza che sente dentro una giovane laureata. Dagli studi di Radio 24, un saluto da Bruno Perini. In regia con noi stamane Carmelo Lauricella. Vi ho letto il titolo di apertura del quotidiano Il Riformista, che è unico, mi pare, su questa vicenda, denuncia e, come dire, enfatizza la denuncia di un aspirante magistrato. Vediamo cosa, intanto il giornale scrive: abbiamo ricevuto questa lettera da uno dei partecipanti allo scandaloso concorso per la magistratura svoltasi una settimana fa a Ro. La pubblichiamo proteggendo l'identità della concorrente. Gentile ministro della giustizia, vorrei poter parlare con lei di quanto è accaduto nel concorso per 500 posti in magistratura svoltosi in data 20-21-22 novembre presso la Fiera Ro di Milano. Vorrei poterle raccontare l'esperienza di un'aspirante uditrice. Vorrei poterle trasmettere l'enorme senso di sconforto, di sconfitta, di impotenza che sente dentro una giovane trentenne, laureata con il massimo dei voti in una prestigiosa università italiana, già avvocato e iscritta al terzo anno di dottorato in diritto privato presso un'università calabrese. Una giovane, insomma, che agli studi del diritto ha dedicato la vita e che crede nei valori della giustizia, della legalità, del rispetto delle istituzioni. È una lunga lettera che viene pubblicata dal quotidiano Il Riformista. Si denuncia una irregolarità nella procedura concorsuale. C'è un passaggio che dice: può comprendersi l'enorme stupore di noi tutti quando, sbirciando su alcuni banchi, scorgiamo la presenza di testi macroscopicamente vietati e per lo più timbrati. Questo vuol dire che quel testo non è stato introdotto di nascosto dal candidato, ma collocato sul banco dalla vigilanza. E allora l'ultimo pensiero va a lei, ministro. Spero che questo sfogo, ci siano ancora delle orecchie disposte ad ascoltare. Spero che quanto accaduto non lasci spazio all'indifferenza. Solo in questo modo potrà essere salvaguardato quell'ideale di giustizia che, nonostante tutto, ancora vibra dentro noi aspiranti uditori. E questo è la lettera di questa magistrata, di questa aspirante magistrata. E il direttore del Riformista, Antonio Polito, dice: c'è un editoriale di prima pagina, chiediamo un'inchiesta ministeriale. Il racconto che pubblichiamo qui a fianco è un eloquente documento della crisi italiana, crisi morale prima che economica e politica, dice la nostra aspirante magistrato. E domanda legittima e inquietante, la risposta la vorremmo, dice, per come è possibile che i garanti della legalità, i magistrati, consentano delle irregolarità. Naturalmente qui la critica e l'accusa è pesante. Domanda legittima e inquietante, la risposta la vorremmo dal ministro della giustizia, l'ottimo Angelino Alfano. Gliel'avevamo già chiesta qualche giorno fa, oggi gliela chiede una giovane donna che ha diritto di sapere se può diventare magistrato grazie alla sua preparazione, al suo talento, ai suoi sacrifici, ai suoi studi. Questo dal quotidiano Il Riformista. Quindi nei prossimi giorni vedremo che cosa sortirà questa iniziativa del quotidiano diretto da Antonio Polito. Ora io voglio invece passare al Sole 24 Ore. Il Sole 24 Ore titola sui grandi temi che ancora sempre dominano l'attenzione dei quotidiani di tutto il mondo, della stampa di tutto il mondo. Oggi il titolo è: la Fed, finanze e consumi, Parigi e Berlino, allentare i vincoli. Vedremo questa storia, questa asse che si è creato tra Parigi e Berlino, è una delle notizie più importanti sul piano internazionale. La Federal Reserve gestirà un nuovo piano di 800 miliardi di dollari finanziato dal Tesoro e dalla stessa Banca Centrale USA per rilanciare il mercato del credito e tutta l'economia. Il programma comprende iniziative specifiche per sostenere i prestiti ai consumatori, ai proprietari di immobili e ai piccoli imprenditori e per rilevare direttamente titoli emessi o garantiti da finanziarie immobiliari e speciale statuto pubblico. Anche l'Europa si muove con il piano da 130 miliardi di euro che annuncia oggi la Commissione UE. Possibile un'applicazione più flessibile fino al 2010 dei limiti antideficit chiesta dal leader di Francia e Germania Nicolas Sarkozy. Questo è il titolo. Io però volevo segnalarvi anche una sul Sole 24 Ore. Una lettera importante e di peso, diciamo, perché è scritta da un banchiere notissimo che è Giovanni Bazzoli. Cosa scrive Giovanni Bazzoli al Sole 24 Ore e in particolare al direttore Ferruccio De Bortoli? Caro direttore, l'attenzione e lo spazio che il suo giornale e tutti i media dedicano in questi giorni al caso Zaleski sono giustificati e ben comprensibili, considerata la dimensione finanziaria degli impegni nonché la notorietà del protagonista. Tuttavia, per quanto riguarda i miei rapporti con l'ingegner Zaleski, ho letto su alcuni organi stampa ricostruzioni fantasiose e false che tendono ad accreditare l'idea che tutti i suoi investimenti siano stati suggeriti da me. Questo scrive Bazzoli e così aggiunge: si arriva perfino a insinuare la tesi grottesca dell'esistenza tra noi di un rapporto fiduciario. La verità non ha nulla a che vedere con questa rappresentazione. Nella scelta e nella gestione di tutti i suoi investimenti, l'ingegner Zaleski, come tutti sanno perfettamente, soprattutto quelli che lo conoscono, ha sempre proceduto da solo in totale autonomia, decidendo sempre di testa sua e in ogni caso senza alcun mio coinvolgimento. Quindi una presa di distanza nettissima da parte di Giovanni Bazzoli, che così conclude. Intanto Bazzoli cita l'unica eccezione, la Mitter. I miei rapporti professionali con Zaleski infatti riguardano soltanto la Mitter. E così conclude: avendo pazientato sinora di fronte a un quotidiano stillicidio di informazioni false, sono certo che lei, riferendosi a Ferruccio De Bortoli, comprenderà, caro direttore, come io non possa più oltre tollerare il diffondersi di notizie del tutto fuorvianti e in alcuni casi diffamatorie. Questo si legge sul Sole 24 Ore. Vi voglio ricordare che stamane alla trasmissione Dietro la Notizia alle 8.30 sarà ospite, per parlare invece di aiuti alle imprese, Stefano Micossi, direttore di Assonime, alla trasmissione condotta da direttore Gianfranco Fabi. Quindi questo lo potrete sentire poi in diretta alle 8.30. Il PDL è a rischio cesarismo. Parola di Gianfranco Fini. Il quotidiano La Stampa è quello che più di altri quotidiani enfatizza e richiama in prima pagina questo servizio di Ugo Magri. E forte come dichiarazione. Andiamo a vedere cosa scrive Ugo Magri sulla Stampa a pagina 12. Magari Berlusconi l'ha preso come un complimento, in fondo quel richiamo a Cesare non può che vellicare il suo ego, ma certamente Fini, quando ieri ha segnalato un rischio di cesarismo incombente sulla democrazia italiana, non intendeva incensare il premier, tutt'altro. È stato un attacco politico trasparente al capo del governo, sferrato tra parentesi proprio mentre il Cavaliere si sta interrogando se lanciare o meno l'attacco finale alla Fortezza Rai. Ha detto in sostanza Fini che una cosa è il presidenzialismo, cui si dovrebbe puntare senz'altro, altra cosa quanto sta accadendo nel nostro paese. Da noi si procede nel rafforzamento dell'esecutivo senza introdurre quei pesi e contrappesi privi dei quali la Repubblica degenera, appunto, nel cesarismo. Categoria politica, badate, che tra le cose Fini, Gianfranco Fini, insomma non si sa se l'ha fatto intenzionalmente, ha pescato però da chi? Da Max Weber e Antonio Gramsci, che assimilavano, guardo un po', alle dittature totalitarie del secolo scorso fondate sul dominio delle folle. Se a lanciare l'allarme è la Finocchiaro, nessuna sorpresa, meno scontato che la denuncia, scrive Ugo Magri, venga addirittura da chi, come Fini, di quel periodo storico è stato appassionato cultore. Un liberale come Tremonti, per fare esempio, è di opposto parere. Stando in Forza Italia posso dire che tutto è tranne che partito azienda, semmai si configura come una monarchia temperata dal più alto grado di libertà anarchica. Ecco, questa è l'altra definizione di Tremonti. Beh, insomma, però diciamo che questa cosa farà sicuramente discutere, perché appunto perché è stata pronunciata Gianfranco Fini, che è presidente della Camera e che rappresenta quell'area poi invece del PDL che confluirà presto, cioè quell'area di Alleanza Nazionale che confluirà presto nel PDL. Ora io volevo invece segnalarvi, perché anche qui la Stampa ne dà un ampio reportage, un servizio che è inquietante nel titolo, quantomeno adesso, perché l'Andrangheta entra al ministero. Vediamo, è Guido Ruotolo, 24 fermi, indagato il braccio destro di Matteoli. Altri giornali danno conto in modo minore di questa storia. Allora dice: tangenti per la Disney del Calabrese, 24 fermi, decine di perquisizioni. È Crotone l'epicentro di questa nuova offensiva giudiziaria, scrive Guido Ruotolo sulla Stampa. Un'inchiesta che lambisce il ministro delle infrastrutture Altiero Matteoli, che coinvolge il ministro dell'ambiente e la UE, indagati e perquisiti per corruzione Emilio Brogi, capo della segreteria di Matteoli, il direttore generale del Ministero dell'Ambiente, Aldo Cosentino, e il funzionario della UE, Riccardo Menghi. L'inchiesta di Crotone racconta di affari della cosca Megna Russelli di Papanice, le estorsioni, i traffici di droga, gli omicidi, ma soprattutto i grandi affari per Europaradiso, la politica bipartisan ANDS oggi PD e l'Andrangheta avevano stretto un patto di ferro nel 2005, il progetto era del finanziere israeliano David Appel. Alberghi, residence, servizi, porti, teatri, centri commerciali, attrezzature e campi da golf, un megavillaggio eccetera eccetera. Insomma, un'inchiesta molto delicata, ci sono anche delle intercettazioni che sono pubblicate, mi raccomando ringrazi il ministro, si dice in una di queste intercettazioni. Insomma, una cosa molto spessa. Questo, scorrendo la Stampa, poi vedo una serie di notizie sulle quali torneremo. Per esempio, Gramsci si convertì, questa tesi per cui alla fine Gramsci si convertì, e poi ancora l'abbraccio Saviano Rusti a Stoccolma all'Accademia dei Nobel, l'incontro tra i due scrittori braccati dalla camorra e dal terrore islamico, e infine sempre una notizia che avete sentito dai GR, insomma che sentite e leggete su tutti i giornali, Sardegna, il PD in frantumi, Partito Democratico in frantumi, Soros si dimette, guerra sull'edilizia. Questo è il quotidiano La Stampa. Ma io adesso volevo appunto riprendere una delle notizie che hanno non solo occupato le pagine dei giornali oggi e lo faranno nei prossimi giorni, ma anche le televisioni, e cioè la vittoria di Luxuria all'Isola dei Famosi, perché su questo ormai si è già scatenata una, non polemica, ma diciamo una discussione politica. Il giornale, per esempio, scrive, Luca Telese del giornale dice: bandiera rossa ormai trionfa solo sull'isola, ma cosa mai gli sarà venuto in mente ai compagni di Liberazione, scrive Luca Telese sul giornale, di intonare una prima pagina di entusiastico peana a Vladimir Luxuria e alla sua vittoria all'Isola dei Famosi. Sapevamo che il compagno Piero Sansonetti mette in pagina Vediamo se ritroviamo. Sì, dice: metti in pagina i giornali dei lavoratori dei No Global. Avevamo ancora degli occhi la prima pagina dedicata alla memoria di Sandro Curzi. Non riusciamo davvero a capire da cosa derivi l'entusiasmo per la presa di un reality. Deve essere il bisogno di cavalcare una moda, deve essere il desiderio di sentirsi intonati nel coro. E così l'isola diventa magicamente il nuovo palazzo d'inverno. Il giornale che titola La sinistra sconfitta, ridotta a festeggiare il trionfo TV di Luxuria, pubblica due interviste, una al Piero Sansonetti, direttore di Liberazione, che dice invece è un po' come la vittoria di Obama, addirittura un colpo al razzismo e al sessismo. Direttore Sansonetti, lei è recidiva nella sua Liberazione, ha pubblicato in prima pagina una piana di Luxuria, vincitrice dell'Isola dei Famosi. A luglio fu sommerso dal lamentele dei lettori. Ma come? Legittimiamo la TV spazzatura. Le lettere di protesta le ricevo qualsiasi cosa faccia. Ne ho ricevute anche oggi e domani le pubblico. Devo dire però che sono meno dell'altra volta. Il titolo era Forza Vladimir, come ha fatto con Obama. Paragone un po' eccessivo, no? Quello del titolo è un trucco, perché al momento della chiusura del giornale non sapevamo chi avesse vinto. Comunque, esultate per la vittoria? Sì, sto con le operazioni che spazzano il razzismo, il sessismo, il maschilismo. Forse il paragone con Barack è un po' esagerato, beh, meno male, ma ci sta, le recenti elezioni degli Stati Uniti sono un reale evento storico. E insomma, però, Francesco Kramer, che lo intervista, dice giustamente, in qualche modo però si legittima la tanto criticata TV spazzatura. Certo, il primo presidente abbronzato, no, abbronzato non lo dico di sicuro, afroamericano. Torniamo a Luxuria, ha un significato così profondo la sua vittoria. Vladimir è una grande persona, ha un'anima grande, così ha rotto il perbenismo, ha senso della comunicazione, ha litigato con la famiglia, con gli ex colleghi deputati, con il partito, con tutti, insomma, dice. E poi il giornale però pubblica anche un'intervista a un operaio, Nicola Albertelle. È uno schifo, una tragedia politica, per forza siamo spariti dalle camere, dice invece Nicola Albertella. Nome Nicola Albertella, 43, lavoro operaio, cassa integrato di un'azienda tessile di Luino fallita, la torcitura valdumentina, delegato Filtea CGL, partito politico Rifondazione Comunista, non iscritto. Letto in Liberazione sul trionfo e Luxuria in TV, titolo e foto di prima pagina, gli articoli non l'ho fatta. Giudizio, potrei essere categorico e definire una schifezza, ma preferisco articolare il ragionamento. E insomma, dice, è articolo di ragionamento, ma poi alla fine la critica è davvero pesante da parte di questo operaio di Rifondazione della CGL, che dice: se il giornale di Rifondazione dà tanto rilievo a Luxuria, si capisce uno dei motivi principali per cui il partito alle ultime elezioni è andato in barca ed è rimasto fuori dal Parlamento, cioè ha perso i contatti con la realtà, con il suo elettorato e quello che dovrebbe essere il suo popolo. Nel paese ci sono cose molto più gravi di cui dovrebbe occuparsi il giornale di un partito come Rifondazione. Da lavoratore penso a chi perde il posto e non sa se riuscirà a trovarne un altro. C'è gente che non sa come mettere insieme il pranzo con la cena e non per modo di dire. Insomma, vabbè, questa è un'opinione molto critica di questo operaio CGL di Rifondazione nei confronti della scelta di Liberazione, ma soprattutto dell'enfatizzazione di questa notizia, la vittoria di Vladimir Luxuria all'Isola dei Famosi. Il quotidiano Il Giornale, polemico ancora, tutti contro la crisi tranne Epifani. Washington vale un altro piano di 800 miliardi, Parigi e Berlino vogliono sospendere Maastricht, Berlusconi rafforzerà le misure antirecessione, il mondo cerca una soluzione, la CGL invece sciopera. E questo è un elemento, e Michele Brambilla, qualcuno era comunista, perché credeva di poter essere vivo e felice solo se lo erano anche gli altri, qualcuno era comunista perché aveva bisogno di una spinta verso qualcosa di nuovo, perché sentiva la necessità di una morale diversa. Ieri qualcuno ha scoperto di essere stato comunista per aspettare il giorno del trionfo, non della classe operaria, ma di Vladimir Luxuria all'Isola dei Famosi. È qui che inizia Michele Brambilla un editoriale un po' polemico, un po' critico nei confronti del comportamento della sinistra a fronte della vittoria di Luxuria. Il quotidiano Libero invece titola l'elenco dei signor no. Sparano contro i nomi, ecco la lista completa dei parlamentari di destra e sinistra che oggi affossano la riforma Gelmini. Sono tutti professori con fior di interessi da difendere. Questa è la linea del quotidiano Libero, si fa vedere, i nomi sono professori ordinari, Maria Pia Garavaglia PD, Vittorio Franco PD, Mauro Cerutti PD, gli ex ministri Paolo De Castro, Tiziano Treo, Adriano e Poli Bertoni PDL, Marcello Pera PDL, Rosi Bindi è ricercatrice. Qui ci sono una serie di nomi che vengono indicati come coloro che sparano contro e fanno di tutto per fermare la riforma Gelmini. E poi anche qui abbiamo una lussuria, ecco la sinistra che vince, il trans di Rifondazione trionfa all'Isola dei Famosi. Insomma, ci sono anche qui una serie di battute un po' tra il sarcasmo e la critica. In USA il cancro fa dietro fronte, è la prima volta dopo 80 anni, ecco sul quotidiano La Repubblica finalmente una bella notizia firmata Umberto Veronesi, la diminuzione dell'incidenza dei tumori negli Stati Uniti legata al minor numero di casi di tumore al polmone segna il successo dell'impegno e della serietà con cui gli americani hanno affrontato la lotta al fumo, agendo sulla consapevolezza individuale e il consenso sociale. Dovrebbe essere quindi il riferimento per tutto il mondo, scrive Umberto Veronesi, che aggiunge: lo stesso risultato è stato in parte ottenuto in Europa, grazie soprattutto alla legislazione di paesi illuminati come il nostro. L'Italia è stata tra i primi in Europa ad adottare la legge che proibisce il fumo nei luoghi pubblici a seguito della mia proposta del 2000, quando ero ministro della Sanità. Però c'è un però molto pesante, dice Umberto Veronesi, dopo averci dato questa bella notizia del risultato statunitense. Primo, dice, abbiamo molto da fare. Primo, dobbiamo salvare le donne dal fumo. Purtroppo, infatti, mentre i maschi hanno iniziato a disdegnare la sigaretta, il mondo femminile l'ha assunta come modello di emancipazione. Ed ora vediamo gli effetti di questa scelta fuorviante, perché la mortalità per tumore al polmone nella donna è vorticosamente aumentata. E se continua il trend attuale, scrive Veronesi, in futuro, le morti da fumo supereranno quelle per tumore del seno. Questa è davvero invece una brutta notizia che ci dà Veronesi a proposito di questo trend negativo per quanto riguarda le donne e i tumori al polmone da fumo. Ora, il quotidiano La Repubblica enfatizza molto, come apertura addirittura di prima pagina, crisi, asse Sarkozy-Merkel, meno vincoli sui conti pubblici, articolo dei due leader per allentare il patto di Maastricht. Ieri parlavamo di Maastricht, parlavamo del pronunciamento di Giulio Tremonti, che dice dobbiamo rispettare i vincoli di Maastricht. Invece diciamo che i due primi ministri di Francia e Germania fanno questa scelta. Come dicevo, ecco, il quotidiano La Repubblica, altre notizie, per esempio Milano, il centrodestra nega Lambrogino Enzo Biagi, ma vi è invece un lungo articolo di Alberto Statera dal titolo I predoni dell'Expo 2015. La Ringa Rossa, antica astuzia venatoria, sta per fare della Milano da bere dell'epoca craxian-ligrestiana la Milano da mangiare della nuova era ligrestian-morattiana, trasformando l'Expo del 2015 dedicato all'alimentazione in una colossale operazione immobiliare. Questo viene scritto da Alberto Statera. La Ringa Rossa antica dice ancora i distinti cacciatori britannici usavano le red herrings per distrarre i cani da caccia dagli avversari, gettando in luoghi strategici della riserva ringhe affumicate. I cacciatori milanesi di cubature immobiliari, che si definiscono developers, stanno spargendo su 8 milioni di metri quadri di aree dismesse dall'industria manifatturiera, che non c'è più una selva di grattacieli firmati da architetti di fama mondiale. Insomma, dice sostanzialmente Alberto Statera, qui si sta iniziando la gara per mettere le mani, diciamo così, predoni dell'Expo 2015. Il quotidiano La Repubblica amplia la notizia, dà molta enfasi alla notizia della Sardegna, ovviamente Soru si dimette sconfitto sull'urbanistica. Il presidente della regione Sardegna si è dimesso dall'incarico. La decisione è stata annunciata dopo che il consiglio regionale aveva bocciato un emendamento alla nuova legge urbanistica voluta dallo stesso Soru. Non si governa se non si ha la maggioranza, ha commentato il governatore, che ha aggiunto: credo che la cosa migliore per i sardi sia chiarire immediatamente lo stato della maggioranza alla quale hanno dato fiducia fino ad oggi. Ma questo non è il mio ultimo giorno in politica, però diciamo è un giorno di grande sconfitta per Soru e sicuramente per il governo di centro-sinistra della Sardegna. Il quotidiano Il Foglio annota una cosa interessante: lobby della politica, Rubin, Paulson, Summers, il conflitto di interessi è enorme, dice, ma anche per Mr. Obama. E questo è, come dire, un elemento di novità nella riflessione. Barack Obama aveva annunciato una squadra di governo senza ex lobbisti e di persone col curriculum ben separato dal grande business, ma per mantenere la promessa elettorale sarebbe dovuto andare a Washington da solo, senza nemmeno il suo stratega David Axelrod o il suo capo dello staff Rahm Emanuel. Anche nella patria della regolamentazione etica dei conflitti di interesse è difficile, se non impossibile, fare a meno di una classe dirigente che è necessariamente legata a doppio filo con interessi particolari ed economici. Ecco, come dire, insomma, il conflitto di interesse anche per Obama non è superabile e soprattutto è un elemento endemico alla politica. Questo sul Foglio. Il Corriere della Sera. Il Corriere della Sera, Maastricht, meno vincoli, come abbiamo già sentito. Francesco Verderami fa un retroscena, scrive un retroscena a questo proposito. Per Berlusconi l'intesa Sarkozy-Merkel è al tempo stesso una buona e una cattiva notizia. L'idea di allentare i parametri di Maastricht consente al Premier di ottenere quanto finora Tremonti non gli aveva concesso in nome del patto di stabilità. Ora potremo usare un paio di miliardi per detassare almeno la parte, in parte le tredicesime. Insomma, sulla storia del tredicesimo comunque non c'è accordo sui giornali, perché qualcuno dice che Silvio Berlusconi si sarebbe già rassegnato a non poter detassare a dicembre le tredicesime. Vediamo un po', perché questo è l'obiettivo a breve termine del Cavaliere, che mira in un sol colpo a conquistare il plauso di commercianti, artigiani, lavoratori industriali, svuotando di significato lo sciopero generale indetto da CGIL e lasciando il sindacato al proprio errore. D'altronde il Premier è determinato e non sente ragioni. Il suo intento è recuperare il consenso perduto nell'ultimo mese, o meglio evitare un'ulteriore erosione di credibilità nel rapporto con l'opinione pubblica. Dopo aver coperto settori importanti, da quello bancario a quello delle imprese, non può limitarsi a un intervento a favore di pensionati e lavoratori con stipendi di fascia bassa. Questo dice quindi il retroscena di Francesco Verderami sul quotidiano Il Corriere della Sera. Infine voglio segnalarvi Il Manifesto, è Alessandro Robecchi sul Manifesto che parla di Antonio Gramsci, della sua ipotetica o presunta conversione sul filo di lana. Colpo di scena, ecco Antonio Gramsci convertito, diventato cattolico, in punto di morte, con tanto di bacio alle immaginette e sacramenti. Lo ha detto Monsignor Luigi De Magistris, e dice Alessandro Robecchi sul Manifesto: attenzione, perché le cose non stanno così. Eppure questa faccenda della conversione in punto di morte non è nuova, venne già smentita, e poi Alessandro Robecchi ricostruisce tutti i passaggi della vita di Antonio Gramsci, dei legami con personaggi importanti, ma dove dice non c'è traccia di questa cosa. Adesso abbiamo finito il nostro tempo, quindi io vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento a domattina.